Marsiglia, 2 settimane dopo. Sono stata molto malata. Raffreddore, mal di gola, febbre altissima e ciò che i poeti chiamano un cuore spezzato. A Parigi ho venduto il medaglione di Maria e ho avuto in cambio tanti assegni quanti appunto me ne occorrevano per il viaggio di ritorno. Maria mi ha ficcata subito a letto e, visto che avevo la febbre alta, ha chiamato il medico. Questi non riusciva a capire come mi fossi boscata un'infreddatura così forte. A Marsiglia, infatti, non aveva piovuto da parecchi giorni. Maria ha anche spedito un messaggio a mamma e mamma è subito tornata per assistermi. Fino ad oggi nessuno ha scoperto che sono stata a Parigi. Adesso me ne sto adagiata su di un divano in terrazza. Mi hanno ravvolta in parecchie coperte e hanno dichiarato che sono molto pallida e spaventosamente magra. Giuseppe e Giulia sono tornati ieri dal loro viaggio e verranno a visitarci questa sera. Spero che potrò restarmene sola. Il generale Napoleon Bonaparte è stato nominato governatore militare di Parigi. Una rivolta di affamati della capitale è stata repressa dalla Guardia Nazionale. Da principio le parole del giornale mi ballavano davanti agli occhi, ma adesso mi ci sono abituata. Napoleone è governatore militare di Parigi. L'edizione straordinaria parla di masse di popolo minuto che volevano prendere d'assalto le Tuilerie e fare a pezzi i deputati. Il direttore Barrat, considerato lo stato di emergenza, ha affidato al generale Napoleon Bonaparte, dimesso dall'esercito, il comando della Guardia Nazionale. Dopodiché il generale ha chiesto alla Convenzione i pieni poteri e li ha ottenuti. E poi, per mezzo di un giovane ufficiale di cavalleria che si chiama Murat, si è procacciato i cannoni e li ha piazzati a nord, a ovest e a sud delle Tuilerie. I cannoni sbarravano la Rue Saint-Roch e il Pont Royal. Tuttavia, le turbe del popolo continuarono ad avanzare finché una voce non lanciò un comando: fuoco! Bastò un solo colpo a ricacciare la folla. Ora la calma e l'ordine sono stati ristabiliti, i direttori rendono grazie all'uomo che ha salvato la Repubblica da un nuovo caos e lo nominano governatore militare di Parigi. È bastato un solo colpo di cannone. Napoleone lo ha fatto sparare. Napoleone prende a cannonate la canaglia. Così scrive l'edizione straordinaria. La canaglia. Si tratta molto probabilmente della gente che abita negli scantinati e che non può pagare il pane a caro prezzo. Anche la madre di Napoleone abita in uno scantinato. Vostro figlio è un genio, signora. Sì, purtroppo. Sono stata un'altra volta interrotta e adesso continuo a scrivere in camera mia. Mentre stavo ancora meditando sull'edizione straordinaria, ho udito che Giuseppe e Giulia erano entrati nella stanza di soggiorno. Perché la porta che dà sulla terrazza è socchiusa. Non avevano dunque atteso la sera per farci visita. Giuseppe ha detto: Napoleone ha spedito un corriere con una lunga lettera per me e con molto denaro per nostra madre. Ho mandato qualcuno ad avvertire nostra madre e a dirle di venire subito qui. Non avete nulla in contrario, non è vero, Madame Clary? Mamma disse che non solo non aveva nulla da opporre, ma che era molto lieta e domandò poi a Giuseppe e a Giulia se volessero salutarmi perché io mi trovavo in terrazza ed ero ancora molto debole. Ma Giuseppe esitava, impacciato. Giulia allora scoppiò a piangere e raccontò a mamma quel che Napoleone aveva scritto a Giuseppe. Si era fidanzato con la vedova del generale de Beauharnais e pregava di farmi sapere che desiderava di restare sempre il migliore dei miei amici. Mamma esclamò: Oddio! Oddio, povera piccola! Poi sentii che arrivavano Madame Letizia, Elisa e Paulette e che parlavano tutte in una volta, finché Giuseppe incominciò a leggere qualche cosa, probabilmente la lettera del nuovo governatore militare di Parigi. Assai più tardi, Giuseppe e Giulia vennero in terrazza. Sedettero accanto a me e Giulia mi accarezzò la mano. Giuseppe, imbarazzato, trovò che il giardino aveva già un aspetto autunnale. Desidero congratularmi con voi per la nomina di vostro fratello Giuseppe, dissi e accennai alla lettera che gli gualciva tra le dita, nervoso. Grazie. Purtroppo devo dirvi qualche cosa, Eugenia, qualche cosa che addolora tanto Giulia e me. Io mi schermii, lasciate stare, Giuseppe, lo so già. E vedendo la sua faccia stupita, aggiunsi: La porta del salotto era aperta e ho udito tutto. In quel momento Madame Letizia si avvicinò. I suoi occhi mandavano scintille. Una vedova con due figli! di 6 anni più vecchia del mio ragazzo, e Napoleone ha il coraggio di propormi questa roba per nuora? Mentalmente rividi Giuseppina, sguardo argentato, riccioli infantili, sorriso orgoglioso. E davanti a me stava Madame Letizia con le sue mani rosse, segnate dal lavoro e con il collo rugoso. Una donna che per tutta la vita ha lavato panni e sgridato bambini. Le sue dita dure stringevano un fascio di biglietti di banca. Il governatore di Parigi ha mandato subito alla madre una parte del suo nuovo stipendio. Poi fui adagiata su un divano in salotto e stetti a sentirli mentre discorrevano dei nuovi grandi avvenimenti. Stefano andò a prendere il migliore dei suoi liquori e si dichiarò orgoglioso d'essere imparentato col generale Bonaparte. Mamma e Susanna si chinarono sui loro lavori. «Mi sento di nuovo bene», dissi. «Non potreste portarmi i tovaglioli che ho incominciato? Vorrei lavorare ancora ai monogrammi del mio corredo». Nessuno osò contraddirmi, ma quando incominciai a ricamare una B, B e ancora B, si fece intorno a me un silenzio concentrato. Di colpo ho avuto l'impressione che un periodo della mia vita si fosse concluso. «Da oggi non vorrei più essere chiamata Eugenia», dissi di punto in bianco. «Io mi chiamo Eugenia Bernardina Desiré e mi piace più di tutti il nome Desiré. Non potete chiamarmi Desiré?» Essi si scambiarono delle occhiate piene di angoscia. Credo che nutrano dei seri dubbi sulla sanità del mio cervello. Roma, 3 giorni dopo il Natale dell'anno sesto. Qui in Italia si osserva ancora il calendario di prima della Repubblica, quindi 27 dicembre 1797. Mi hanno lasciata sola col moribondo. Il moribondo si chiama Jean-Pierre Dufaux ed è un generale dello Stato Maggiore di Napoleone. Era giunto oggi a Roma per farmi una proposta di matrimonio. 2 ore fa una palla lo ha colpito nello stomaco. Lo abbiamo adagiato sul sofà nello studio di Giuseppe. Il medico dice che non può farci nulla. Dufaux ha perduto la conoscenza. Il suo respiro suona come un succedersi di singhiozzi sommessi. Un sottile filo di sangue gli cola da uno degli angoli della bocca. Per questo gli ho ravvolto dei tovaglioli intorno al mento. Gli occhi sono semiaperti, ma non vedono nulla. Dalla stanza attigua giungono le voci sommesse di Giuseppe, di Giulia, del medico e di 2 segretari d'ambasciata. Giulia e Giuseppe sono usciti perché hanno timore di veder morire un uomo e il medico li ha seguiti. Ho ripreso adesso il mio libro e ho incominciato a scriverci di nuovo dopo tutti questi anni. Così non mi sento più tanto sola. La mia penna scricchiola e il continuo singhiozzare del moribondo non è più almeno l'unico rumore che si ode in questa stanza così paurosamente alta. Napoleone, Dio mio. Non c'è più che sua madre a chiamarlo ancora così. Oggi il mondo intero parla di Napoleon Bonaparte e si può dire non parla che di lui. Dunque, da quella volta di Parigi non l'ho più rivisto e fino a questo momento i miei non sanno di quel nostro incontro. Nella primavera dell'anno dopo ha sposato Giuseppina. Tayenne e Barras sono stati testimoni alle sue nozze e Napoleone ha subito pagato i debiti della vedova Beauharnais con le sarte. 2 giorni dopo il matrimonio è partito per l'Italia. Il governo gli aveva affidato il comando supremo in Italia. Nel corso di 2 settimane ha vinto 6 battaglie. Il respiro del moribondo è cambiato, è diventato più calmo. E i suoi occhi sono spalancati. L'ho chiamato per nome, ma lui non mi ode. Proprio così, nel corso di 2 settimane, Napoleone ha vinto 6 battaglie e gli austriaci hanno sgombrato l'Italia settentrionale. Spesso io ripenso ai nostri colloqui di quelle sere presso la siepe. Napoleone ha davvero fondato degli stati. Ha chiamato Lombardia il primo di questi stati e Repubblica Cisalpina l'ultimo. Ha fatto di Milano la capitale della Lombardia e ha eletto 50 italiani che dovranno governare quello stato in nome della Francia. Da un giorno all'altro le parole libertà, uguaglianza, fraternità sono state scritte su tutti i pubblici edifici. I milanesi hanno dovuto pagare una grossa somma di denaro e consegnare 300 cavalli da tiro e le loro migliori opere d'arte. Napoleone ha mandato tutto a Parigi. Prima naturalmente ha detratto le paghe per le sue truppe, perché il direttorio era sempre rimasto in debito verso i soldati dell'esercito del sud. I signori Barras e compagni a Parigi non sapevano capacitarsi di quello che succedeva. Danaro nelle casse dello Stato, i più bei cavalli d'Italia alle loro carrozze e quadri preziosi nei loro saloni di ricevimento. Uno di questi quadri Napoleone lo raccomandò in modo particolare all'attenzione dei parigini. Si chiama La Gioconda ed è stato dipinto da un certo Leonardo da Vinci. È una signora che, a quanto si dice, si chiama Monna Lisa e sorride con le labbra chiuse. Il suo sorriso ricorda quello di Giuseppina, forse aveva anche lei dei brutti denti, come la vedova Beauharnais. E da ultimo è avvenuto quel che nessuno mai avrebbe creduto possibile. La Repubblica francese si era svincolata dalla Chiesa di Roma e per anni interi da tutti i pulpiti di là dai nostri confini i preti cattolici hanno scagliato maledizioni contro il nostro Stato. Ma poi il Papa si è rivolto a Napoleone e ha chiesto di far pace con la Francia. Per più giorni la gente ha fatto ressa nel negozio di Stefano perché mio fratello era in grado di raccontare come Napoleone, già alcuni anni prima, gli avesse confidato i suoi piani. A lui, che non è soltanto il cognato del generale Bonaparte, ma è anche il suo migliore amico. Mi sono di nuovo seduta accanto a Dufaux e gli ho sollevato un tantino la testa, ma non ha giovato. Il suo respiro non è divenuto per questo meno affannoso, anzi, ma ha bisogno di aria. Gli ho forbito un poco la bocca dalla bava intrisa di sangue. Il suo volto è giallo, cereo. Ho chiamato il medico. Emorragia interna, ha sentenziato nel suo francese stentato. Ed è tornato da Giuseppe e da Giulia. Di sicuro parlano del ballo di domani. Già prima del concordato col Vaticano, il governo di Parigi si era impensierito. Napoleone stendeva e sottoscriveva da solo tutti i trattati con gli italiani da lui liberati e non domandava neppure più a Parigi se si approvassero le sue condizioni. Ciò va oltre i poteri di un comandante supremo, brontolavano i direttori di Parigi. Ciò non ha più nulla a che fare con la condotta della guerra. Questa è politica estera di somma importanza. È assolutamente necessario mandare laggiù dei diplomatici come consiglieri. Allora Napoleone ha fatto un elenco di nomi, che si investissero questi signori del titolo e dei poteri di ambasciatori della Repubblica e che si mandassero da lui in Italia. In capo alla lista c'era il nome di suo fratello Giuseppe, naturalmente. Così Giuseppe e Giulia sono venuti in Italia. Andarono prima a Parma, poi come ambasciatore e ambasciatrice a Genova e da ultimo a Roma. Del resto non venivano da Marsiglia, ma da Parigi. Napoleone era stato appena nominato governatore militare di Parigi, che già scriveva a suo fratello dicendogli che per lui c'erano ben maggiori possibilità a Parigi che altrove. Qualunque cosa avvenga, Napoleone riesce a procurare sempre un posto a suo fratello Giuseppe. Il primo era stato il modesto impiego di segretario della Maison Commune di Marsiglia. A Parigi lo mise in relazione non solo con Barrà e con gli altri uomini politici, ma pure con i fornitori militari e con quei nuovi ricchi che hanno fatto i quattrini con la speculazione sulle case. Giuseppe si cacciò anche lui negli affari, comprò dei palazzi nobiliari confiscati che il governo vende all'asta per poca moneta e li rivendette a prezzi molto maggiori. Adesso c'è la crisi degli alloggi e questi affari si combinano con grande facilità, afferma Stefano. In poco tempo Giuseppe ha potuto acquistare per sé e per Giulia una piccola casa nella Rue du Rocher. Quando giunsero gli annunzi delle vittorie d'Italia, Millesimo, Castiglione, Arcole, Rivoli, Giuseppe divenne subito a Parigi una personalità. In fin dei conti era il fratello maggiore di quel Bonaparte che i giornali esteri chiamavano l'uomo forte di Francia e le nostre gazzette il liberatore del popolo italiano. Di quel generale il cui magro volto si vede in tutte le vetrine, riprodotto su tutte le tazzine da caffè, sui vasi da fiori e sulle tabacchiere. Da una parte campeggia la faccia di Napoleone e dall'altra la bandiera francese. Nessuno si stupì che il governo aderisse subito al desiderio del suo generale vittorioso, nominando ambasciatore Giuseppe. Giuseppe e Giulia si trasferirono nel loro primo palazzo marmoreo in Italia e Giulia si sentì subito infelice e mi scrisse disperata di raggiungerla. Così mamma mi lasciò partire e da allora passo con lei e con Giuseppe da un palazzo all'altro e ho dimorato in sale spaventosamente alte, dai pavimenti a riquadri bianchi e neri, e vado a sedermi qua e là in cortili circondati da colonne, dove sorgono fontane dalle più varie fogge con stranissime figure di bronzo le quali gettano zampilli d'acqua da tutte le possibili e talora anche impossibili aperture. Il palazzo dove stiamo adesso si chiama Palazzo Corsini. Intorno a noi c'è un continuo suonare di speroni e sbatacchiare di sciabole, perché il personale dell'ambasciata di Giuseppe è naturalmente costituito soltanto da ufficiali. Domani Giuseppe dà il più grande ballo che finora abbia allestito l'ambasciata. Vuole che a lui e a Giulia siano presentati 350 cittadini più notevoli di Roma. Pur tra le battaglie, vittorie, trattati di pace e fondazioni di stati, Napoleone trova tempo per occuparsi continuamente della sua famiglia. Fin da principio, dei corrieri dall'Italia portarono oro e lettere a Madame Letizia a Marsiglia. Ella dovette trasferirsi in un alloggio più presentabile e mandare Gerolamo, quel monello della strada, ad una scuola a modo. Carolina invece fu condotta a Parigi in un convitto signorile per fanciulle, nel quale viene educata anche Hortensia de Beauharnais, la figliastra di Napoleone. Dio mio, come si sono raffinati Bonaparte! E che arrabbiatura ha preso Napoleone perché sua madre ha permesso a Elisa di sposare un certo Felice Bacciocchi. Perché tanta furia? Le ha scritto. E perché proprio questo perdigiorno d'un Bacciocchi, questo studente di musica? Per la verità se la intendeva già da un pezzo Elisa col Bacciocchi e aveva sempre sperato che la sposasse. All'annuncio delle prime vittorie d'Italia, Bacciocchi ha chiesto la sua mano e gli fu risposto di sì. E dopo questo matrimonio, Napoleone, preso dal timore che anche Paulette gli porti in famiglia qualcuno che non gli vada genio, ha voluto che Madame Letizia lo andasse a visitare con Paulette al suo quartiere generale di Montebello. E lì, in 4 e 4 8, l'ha maritata ad un generale Leclerc che nessuno di noi sa chi sia. Ma è penoso e assolutamente incomprensibile il fatto che Napoleone, con tutta la storia mondiale che sta facendo, non abbia dimenticato me. Sembra che si sia messo in testa di riparare in qualche modo al torto che mi ha fatto. Perciò, d'accordo con Giulia e Giuseppe, non fa che mandarmi dei candidati alla mia mano, l'uno dopo l'altro. Il primo è stato Junot, il suo ex aiutante personale dei tempi di Marsiglia. Junot, alto, biondo e gentile, arrivò da noi a Genova, mi spinse in giardino e lì si piantò sull'attenti, annunciandomi che aveva l'onore di chiedere la mia mano. Io rifiutai, ringraziandolo. Ma è un ordine di Napoleone, dichiarò candidamente Junot. Io pensai al giudizio che di lui aveva dato Napoleone, fedele ma idiota. Scossi il capo e Junot ripartì a cavallo per il quartiere generale. Il candidato seguente fu Marmont, che io già avevo conosciuto a Marsiglia. Marmont non mi fece una proposta precisa, ma vi accennò con tatto e delicatezza. Io mi ricordai di ciò che Napoleone mi aveva detto una volta di questo suo amico. È intelligente, vuol far carriera con me. Ecco, e adesso appunto vorrebbe sposare la cognata di Giuseppe Bonaparte, pensai. In questa maniera ci si imparenta con Napoleone, gli si fa un favore e si agguanta per di più una non disprezzabile dote. Io risposi alle delicate allusioni di Marmont con un altrettanto delicato no. Poi andai a protestare da Giuseppe e gli domandai se non potesse scrivere a Napoleone di risparmiarmi le richieste di matrimonio dei suoi ufficiali di Stato Maggiore. Ma non capite che Napoleone considera un grandissimo onore fatto ad uno dei suoi generali l'offerta della mano di sua cognata? Io non sono una decorazione da conferire ad un ufficiale benemerito, dissi. E se qui non riesco ad avere pace, torno da mamma. Stamani, sebbene facesse un po' freddo, ero seduta con Giulia nel peristilio. Al centro della fontana che sorge nel cortile, siede una pingue signora di bronzo e tiene tra le braccia un delfino, il quale getta fuori acqua assiduamente. Per l'ennesima volta stavamo studiando i nomi delle famiglie principesche italiane che verranno domani sera in visita all'ambasciata, quando comparve Giuseppe e si avvicinò a noi tenendo in mano una lettera. Sua Eccellenza, come è solito fare tutte le volte che ha da dire qualcosa di spiacevole, parlò prima di questo e di quello e poi disse improvvisamente: Napoleone ha dato ordine che ci venga assegnato un nuovo addetto militare, il generale Jean-Pierre Dufaux, un giovane molto simpatico. Io alzai gli occhi. Dufaux? Non è venuto una volta a Genova un generale Dufaux a chiedervi udienza? Precisamente, esclamò Giuseppe tutto contento. E vi ha fatto buona impressione, non è vero? Infatti Napoleone scrive di sperare che Eugenia Oh, dovete scusare, lui scrive ancora Eugenia invece che Desiree, che voi insomma vorrete interessarvi di lui. È un giovane molto solitario, scrive Napoleone. E allora io mi levai in piedi. Un altro candidato al matrimonio? No, grazie. Avevo creduto che questa storia fosse finita. Quando fui sull'uscio mi volsi indietro. Scrivete subito a Napoleone di non mandare qui questo signor Dufaux, o come altrimenti si chiama. Ma è già qui. È arrivato un quarto d'ora fa e mi ha portato le lettere di Napoleone. Allora io sbattei furiosa la porta. Ciò mi dava un piacere particolare perché nei grandi palazzi marmorei una porta sbattuta suona come un'esplosione. Al pranzo non mi feci vedere per evitare Dufaux, ma a cena comparvi nuovamente perché mi annoio troppo a mangiare tutta sola in camera mia. Naturalmente avevano messo Dufaux accanto a me. Giuseppe obbedisce servilmente ai desideri di Napoleone. Io guardai il giovane soltanto di sfuggita, di media statura, di carnagione molto scura e con tanti, tanti denti bianchi nella larga bocca. Queste le mie impressioni. Soprattutto mi irritava il balenare dei suoi denti perché egli mi sorrideva continuamente. A tavola la nostra conversazione venne spesso interrotta. Per la verità siamo ormai abituati a udire della gente che si raccoglie in crocchi davanti all'ambasciata per gridare «Viva la Francia!» e «Viva la libertà!» Ma qualche volta alle grida si mescola anche un «Abbasso la Francia!» Gli italiani sono in genere entusiasti delle idee repubblicane, ma i pesanti tributi che devono pagare per sostenere le spese della nostra occupazione e il fatto che Napoleone sceglie lui tutti i loro funzionari sembrano irritare molti. Ma questa sera il chiasso davanti al portone d'ingresso era differente dal solito, era più alto e quasi minaccioso. Giuseppe accennò alla causa di questo fermento. La notte scorsa sono stati arrestati alcuni cittadini romani quali ostaggi per l'uccisione di un tenente francese in una rissa d'osteria. Di fuori c'era adesso una deputazione del Consiglio Comunale di Roma e chiedeva di conferire con Giuseppe. Una gran folla si era raccolta per vedere come sarebbero andate a finire le cose. Perché non ricevi questi signori? Avremmo potuto aspettare a metterci a tavola, disse Giulia. Ma Giuseppe dichiarò. E i signori dell'ambasciata sentirono che le cose stavano diversamente. Lui non avrebbe ricevuto nessuno perché la faccenda non lo riguardava. Era fin da principio affare del governatore militare di Roma. Di fuori, intanto, il baccano cresceva e da ultimo venne bussato al portone. La mia pazienza è agli estremi. Io faccio sgombrare la piazza. Gridò in quel punto Giuseppe e fece un segno ad uno dei suoi segretari. Recatevi subito al comando militare e chiedete che sia fatta sgombrare la piazza davanti all'ambasciata. Non si può tollerare oltre questo chiasso. Il giovanotto si avviò per uscire. Passate per prudenza dall'uscita posteriore, gli gridò ancora il generale Dufaux. Noi continuammo a mangiare in silenzio, ma prima che venisse il caffè, udimmo uno scalpitare di cavalli. Era stato mandato un battaglione di ussari per sgombrare la piazza. Giuseppe si alzò subito e noi andammo con lui sul balcone al primo piano. La piazza di sotto sembrava una pentola infernale. Un mare di teste ondeggiava, risuonava un confuso vociare, squillavano a tratti grida isolate. Non potevamo vedere la delegazione del Consiglio Comunale, che era stata sospinta e pigiata contro il nostro portone. Le due sentinelle dell'ambasciata stavano immobili davanti alle loro garitte e sembrava che da un momento all'altro dovessero essere sopraffatte, calpestate. Giuseppe ci fece rientrare in fretta dal balcone e noi schiacciamo allora la faccia contro i vetri delle altre finestre. Mio cognato era pallido come un morto e continuava a mordersi il labbro inferiore. La mano che gli passava agitato tra i capelli tremava per la collera. Gli ussari avevano circondato la piazza, come tante statue se ne stavano sui loro cavalli con i moschetti puntati. Aspettavano un comando, ma evidentemente il loro capo non si risolveva a dare questo comando. Andrò giù e cercherò di ricondurre questa gente alla ragione, disse Dufaux. Generale, voi non vorrete esporvi a questo pericolo? Sarebbe una cosa insensata, i nostri ussari penseranno loro, lo scongiurò Giuseppe. Dufaux mise ancora in mostra i suoi denti bianchi. Ah, sono un ufficiale, eccellenza, e perciò avvezzo ai pericoli. D'altra parte, vorrei evitare un inutile spargimento di sangue. I suoi speroni tintinnarono. Egli si avviò per uscire, ma si voltò ancora indietro e cercò il mio sguardo. Io Mi volsi di nuovo in fretta verso la finestra. Lui dunque si buttava in questa impresa per me, per far colpo su di me, si buttava solo e inerme tra la folla inferocita. Socchiudemmo un poco la finestra per poter udire meglio. In quel momento il portone di sotto venne aperto. Il muggito della folla diminuì, divenne un sommesso mormorio minaccioso. Una voce violenta gridò: "Abbasso!" E poi ancora: "Abbasso!" Dapprima non riuscivamo a vedere Dufaux, ma poi la folla si scostò dal portone e gli fece posto. Egli levò le mani con un gesto di preghiera per chiedere che lo ascoltassero. Allora partì un colpo e subito dopo crepitò la prima salve degli ussari. Io mi voltai, scesi la scala a precipizio, aprii il portone. Le due sentinelle avevano sollevato il generale Dufaux e lo sostenevano per le ascelle, ma le sue gambe ciondolavano, inerti. Il volto era piegato da una parte e la bocca era distorta. Il suo eterno sorriso si era trasformato in un rigido ghigno. Aveva perduto la conoscenza. Le due guardie lo trascinarono nell'atrio. Le gambe inerti strascicavano sui riquadri di marmo. Gli speroni tintinnavano. Poi i due soldati guardarono smarriti intorno. «Di sopra!» udii la mia voce. «Dobbiamo adagiarlo di sopra, in qualche luogo!» Improvvisamente fummo circondati da pallide facce turbate. Giulia, il grasso consigliere d'ambasciata Minette, la cameriera di Giulia. Le facce bianche si scostarono e i due soldati portarono Dufaux su per lo scalone. Di sotto, sulla piazza davanti all'ambasciata, c'era un silenzio di morte. Due salve erano bastate. Aprii la porta dello studio di Giuseppe. Era la stanza più vicina alla scala. I soldati deposero Dufaux su un sofà e io gli misi alcuni cuscini sotto la testa. Giuseppe mi stava accanto e disse: «Ho mandato a chiamare un medico, forse non è una cosa tanto grave». L'uniforme turchina aveva una macchia umida nella regione dello stomaco. «Sbottonatelo, Giuseppe!» dissi io. E le dita di Giuseppe, incerte e agitate, incominciarono a darsi da fare con i bottoni dorati. La macchia di sangue sulla camicia bianca era rosso chiara. «È ferito allo stomaco», disse Giuseppe. Guardai la faccia del generale. Era diventata tutta gialla. Dalle labbra spalancate usciva a scatti un singhiozzo. Dapprima credetti che piangesse, poi compresi che faceva sforzi per respirare. Il piccolo e magro medico italiano che era stato chiamato era più agitato di Giuseppe. Per lui era una grande fortuna l'essere chiamato all'ambasciata di Francia. Diceva di essere un grande ammiratore della Repubblica francese e del generale Napoleone Bonaparte e deplorava quanto era avvenuto in città e balbettava qualche cosa di elementi irresponsabili mentre apriva la camicia di Dufaux. Lo interruppi e gli domandai se gli occorresse qualche cosa. Mi guardò sconcertato, poi gli venne un'idea: un po' d'acqua tiepida e possibilmente un panno pulito. Incominciò a lavare la ferita. Giuseppe si era accostato alla finestra e Giulia si appoggiava alla parete e lottava contro la nausea. La condussi via e dissi a Giuseppe di badare a lei. Giuseppe parve soddisfatto d'aver modo di allontanarsi dalla stanza. «Una coperta!» disse a me il medico. «Avete per caso una coperta? Le sue membra sono già tutte fredde perché si sta dissanguando. Internamente, mademoiselle, internamente». Stendemmo una coperta addosso a Dufaux. «Purtroppo qui non c'è niente da fare, mademoiselle. Oh, che cosa terribile, un signore così!» I suoi occhi non si staccavano dai galloni dorati di Dufaux. Poi si diresse in fretta verso la porta dietro la quale era scomparso Giuseppe. Io lo accompagnai nella stanza attigua. Giuseppe, Giulia, il consigliere d'ambasciata e alcuni segretari sedevano parlando a bassa voce intorno ad una grande tavola mentre un domestico serviva in giro del porto come corroborante. Giuseppe si levò subito, offerse un bicchiere al medico e potei vedere come il fascino napoleonico avvolgesse senz'altro il piccolo medico in una nube di beatitudine. Balbettò: «Oh, eccellenza, il fratello del nostro grande liberatore!» Tornai da Dufaux. Dapprima mi diedi da fare, presi dei tovaglioli e gli forbii il mento dall'esile filo di sangue, ma dovetti smettere perché il sangue non cessava di colare. Allora gli distesi dei tovaglioli sotto il mento, poi cercai inutilmente di cogliere il suo sguardo smarrito. Da ultimo presi il mio libro e incominciai a scrivere. Credo che siano passate molte ore. Le candele sono già quasi consumate. Ma dalla stanza attigua giunge sempre il mormorio sommesso. Nessuno andrà a letto prima che... Aurora ha ripreso la conoscenza. L'avevo udito muoversi e mi sono inginocchiata accanto a lui, appoggiando il suo capo al mio braccio. Il suo sguardo mi sfiora il viso. Più volte. Evidentemente non sapeva dove si trovasse. «Siete a Roma, generale Dufault», dissi. «A Roma, dall'ambasciatore Bonaparte». Egli mosse le labbra e sputò della schiuma sanguigna. Con la mano libera gli tersi la bocca. «Marie», balbettò. «Voglio andare da Marie». «Dov'è Marie? Presto! Ditemi dov'è Marie!» Adesso i suoi occhi, limpidi e coscienti, incontrarono il mio viso. Interrogavano, perciò ripetei: «Siete a Roma! Ci sono stati dei disordini di piazza, siete stato ferito! Avete una ferita allo stomaco!» Annuì distintamente, mi capiva. I miei pensieri si incalzavano. Io non potevo far niente per lui, ma per lei forse, forse per Marie. «Non dirlo!» balbettò. «Non dirlo al Bonaparte!» «Ma se voi sarete malato per molto tempo, bisognerà pure avvertire Marie. Napoleone Bonaparte non ne dovrà sapere nulla!» Sorrisi con aria d'intesa. «La cognata! Sposare la cognata, l'Eugenia!» mormorò. «Bonaparte ha proposto e...» Non potei intendere di più. Poi tornò ad essere comprensibile. «Giudizio, piccola Marie, penserò sempre a te e al piccolo Giorgio, cara, cara Marie!» La testa gli si piegò da un lato, protese le labbra e tentò di baciare il mio braccio. «Mi aveva scambiata per Marie!» Aveva spiegato bene a Marie perché l'avrebbe abbandonata, lei e il suo piccolo figlio, per sposare me, la cognata di un Bonaparte. Ciò poteva voler dire una promozione, aprire insospettate possibilità. La sua testa pesava greve sul mio braccio. Lo sollevai un poco. «L'indirizzo di Marie lo scriverò», e cercai ancora di afferrare il suo sguardo. Per una frazione di secondo riprese la conoscenza. «Marie, Marie Meunier, rue de Lyon 36, Parigi». I tratti del volto gli si erano fatti più duri, gli occhi erano infossati nelle occhiaie profonde e il suo respiro risuonava come un singhiozzo represso. Gocce di sudore gli brillavano tra i capelli. «A Marie e al piccolo Giorgio sarà sempre provveduto a dovere», dissi io, ma lui non mi udiva più. «Lo prometto», ripetei. I suoi occhi improvvisamente si ingrandirono, le labbra si contrassero convulse. Scattai in piedi e corsi alla porta. In quell'attimo lui sospirò, il lungo sospiro tremolò per la stanza e si spense. «Venite subito, dottore!» udii chiamare dalla mia voce. «È finita», disse il piccolo italiano dopo essersi curvato per un momento sul sofà.